esaustiva esplicación. Guardo de mente estante. A un lato una foglia più nuova, mentre argenti rami ramificati frignano sull'erba terra. Thank you.